Radio 24 Reportage. Hashtag Covid-19. Storie di eroi per caso. Il gentiluomo e il pugile. Di Cristina Carpinelli. Io sono Angelo Solazzo e sono un volontario anch'io di Emergency. Faccio il tassista, hai visto il mio taxi fuori, e oggi andrò a distribuire questi pasti. Tra l'altro faccio anche altro tipo di volontariato, in questo periodo non sto lavorando perché è allucinante lavorare, e quindi giustamente cerchiamo di aiutare le famiglie che sono in difficoltà, che facendo questa azione di volontariato si vanno a toccare con mano situazioni che sono veramente pesanti all'interno della grande Milano, no? La Milano di Piazza Gaio Lenti, per dire, no? Dove vedi proprio un sistema, no, che è stato costruito per, no, un certo business. Vai nei quartieri popolari e ti accorgi che la vita è tutta un'altra cosa, no? Cioè ti vedi veramente le persone in difficoltà. Io, oltre a fare questa azione di volontariato, faccio altre azioni di volontariato e vado a consegnare pasti come taxi service, no? Quindi un'altra organizzazione di tassisti di consegna pasti realizzata da un hotel di Milano, e veramente ti accorgi della povertà che esiste nella grande Milano. Consegna pasti a persone che sono in difficoltà finanziarie, difficoltà motorie, e difficoltà anche psichiche, io ho visto, no? Ecco, la grande Milano è fatta anche da queste situazioni, da queste emergenze, no? Ecco, probabilmente questo qua è uno dei momenti in cui dovremmo prendere coscienza anche di queste situazioni. C'è lo staff dell'hotel dei Cavalieri, che sta in piazza Missori, ci troviamo tutti lì, circa 50-60 tassisti, ognuno di noi prende 10-15 pasti, no, preparati dallo staff dell'hotel, e li portiamo in giro a persone della città in difficoltà. Questa che avete appena sentito è la voce di uno dei tassisti che nel corso della prima ondata di Covid diede subito il suo aiuto. La sua auto bianca era diventata un luogo di resistenza alla fragilità e al dolore che stava colpendo l'Italia intera. Era lo scorso aprile e l'intervista fu realizzata all'esterno di uno degli hub messi a disposizione dal Comune di Milano, attorno al quale ruotavano tante associazioni e moltissimi volontari. Furono oltre 50 i tassisti milanesi che in maniera organizzata portarono pasti caldi a chi ne aveva bisogno. Tra loro spiccano due nomi, quello di Giuseppe Allegri e Mauro Resmini, morti per Covid e a cui Milano ha tributato la massima onorificenza, l'Ambrogino d'Oro. Giuseppe Allegri era riservato e schivo, era una persona di grande correttezza, mi racconta così uno dei suoi colleghi e amici. Allora, Radio Taxi 6969 a Milano, io mi chiamo Vincenzo Mazza, nickname Gegè, i tassisti da 45 anni mi conoscono con questo nickname, ed ero particolarmente affezionato a Giuseppe Allegri, nel senso che lo conoscevo fin dai primordi, quando lui ha iniziato. Lui era un vigile urbano a Milano, dopodiché ha preso la licenza in carico, si è messo a fare il tassista. Ma il tassista in che modo? Con un modus operandi del tutto originale e sicuramente di estrema professionalità, corretto fino all'inverosimile, ma non lo dico perché, come si fa di solito, che negli epitaffi si scrivono delle cose bene senza parlare male. No, no, lui proprio era una persona veramente per bene. Mauro Resmini, l'altro tassista premiato ed ucciso a sua volta dal Covid, era allegro e compagnone. Aveva 57 anni, amava la box, era stato un pugile. Era uno di quegli amici che puoi chiamare a qualsiasi ora del giorno e della notte, mi racconta Alberto Ravalli, un collega e amico. Mauro è una bellissima persona, una persona molto disponibile e con cui aveva un bel rapporto di amicizia. Una persona che è rimasta sul lavoro tutti i giorni, anche nel periodo peggiore, marzo, aprile, maggio. Io so che lui, lavorando, faceva anche servizio gratuito per le persone anziane e per i malati di Covid, nel periodo quello lì di marzo, aprile, maggio, finché durata la situazione, ecco. No, vabbè, lui poi a fine aprile è entrato in ospedale, quindi marzo, febbraio-marzo. Ma guarda, io Mauro devo ringraziarlo per tutto, perché moralmente e fisicamente mi ha dato una mano, un appoggio morale, un aiuto psicologico, e mi ha insegnato bene o male il suo mestiere, come funzionava, come tutto. Poi vabbè, poi avevamo coltivato un'amicizia, avendo le compagne entrambe brasiliane, un'amicizia bella, molto bella. Qualsiasi problema che avevo lo chiamavo, c'era. Era una persona allegra, vivace? Sì, una persona allegra, uno sportivo, una persona che non mollava mai. Allegri e Resmini non si conoscevano, come tanti tassisti che in silenzio e con piccoli gesti hanno dato una mano nei momenti di difficoltà. Persone anziane in ospedale che pagavano col buono. Lei portava gli anziani con un buono, quindi che loro avevano... Comune, del comune, che davano un tot di 10 euro, perché noi per portare le persone dobbiamo sempre attaccare il tassametro, perché se il tassametro è spento, se ci ferma la polizia, siamo in difetto. Noi come servizio dobbiamo avere sempre il tassametro acceso. Cerchiamo sempre di dare il nostro servizio il più possibile, 10 ore al giorno, nonostante questa crisi che ovviamente ci ha colpito duramente. Ho portato delle persone negli ospedali, nelle varie cliniche, ma... più di questo purtroppo non ho potuto fare. Però l'hai fatto come? Sì, ho portato più persone. Capita spesso di portare persone nelle cliniche, nelle varie strutture. E come ti senti tu quando li carichi e li devi portare? No, mi sento tranquillo, nel senso, usiamo i dispositivi di protezione, magari io ho la paratia come tanti, e mi pulisco spesso le mani col gel, utilizzo la mascherina, e questa è l'unica cosa che faccio. Poi sei gratificato, vabbè, ti senti che stai facendo qualcosa di buono in quel momento. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. I due tassisti, premiati con l'Ambrogino d'Oro, vittime del Covid, avevano tante cose in comune, fra tutte la correttezza e la generosità, quel non tirarsi indietro e quel non infierire su chi si trova in difficoltà. Un premio dunque l'Ambrogino d'Oro, che ci permette di andare a raccontarle queste esistenze normali e al contempo speciali. Aveva una figlia che amava più di ogni altra cosa Giuseppe Allegri, ex vigile urbano, che gli altri tassisti chiamavano il tassista gentiluomo, ancora Vincenzo Mazza, amico e tassista. Non è che tutti i giorni potevamo vederci, però ci sentivamo abbastanza spesso, avevamo un rapporto molto diretto rispetto a, diciamo, a rapporti che si hanno con i colleghi normali. E una delle caratteristiche che ho potuto sperimentare, nel senso non di professionalità, ma proprio di vera umanità, non andava mai fuori dalle righe. Vi racconto un episodio incredibile, dove uno ha preso il taxi, l'ha portato a Rozzano, l'ha fatto girare, tra l'altro, quindi se prendeva, andava a Rozzano, finiva, vabbè, il danno si risolveva in una... Dopodiché non l'ha pagato. Io ho detto, vabbè, però questo qui mi sembra, insomma, un conto se una persona ha un'estrema necessità, perché deve prendere un treno, deve prendere un aereo, non c'è i soldi, per tutta una serie di ragioni, e si può benissimo, come dire, essere magnanimi. No, gli faccio, ma vabbè, ti chiamo i carabinieri. Ma no, ma poverino, lascialo perdere, per 35 euro no, non andiamo a rovinare una persona. Ecco, questo è il messaggio che voglio far passare sul tipo di mentalità che aveva Giuseppe. C'è una mentalità di non infierire nei confronti della gente che, come dire, faceva anche delle cose assolutamente non legali, perché se tu hai i soldi, il taxi lo prendi, te lo paghi e vissero felici e contenti. No, ecco, questo è un aspetto, diciamo, della personalità del Beppe. L'altra questione, invece, lui era praticamente fisso, lui abitava in Barona. Lui praticamente, come i vecchi tassisti, non faceva altro che ritornare in Famagosta, alla metropolitana. Questo è stato praticamente fatale per lui, perché l'abbiamo già dipanato questo problema a posteriori, nel senso che lui veramente il suo 50% dei servizi lo sviluppava al pronto soccorso del San Paolo, a malati più o meno che non te lo dicevano, e all'epoca non era ancora scoppiata proprio la bagarre, no? Quindi calcola che il 7-8 di marzo lui è stato male, dopodiché a fine marzo è morto, è vero, perché si è acuito tutta la malattia, eccetera, ed è stato veramente una vittima sacrificale da questo punto di vista. Perché? Perché lui andava sempre là. Quando c'è stato il lockdown, lui è stato uno di quei tassisti che ha scelto di fare volontariato, quindi portare i pasti piuttosto che portare i medici gratis. Lui, allora, c'è stato un periodo in cui noi avevamo fatto una specie di, come dire, di accordo col comune per dare una mano agli infermieri. Quindi lui spessissimo ha provato, e beh, te lo dico con cognizione di causa, non lo dico per né per millantare né tantomeno per lodare, lui ha preso degli infermieri, dei dottori, e quando dice quant'è, va bene così, siamo a posto così, perché tanto gli dottori del San Paolo e gli infermieri abitavano quasi tutti nei paraggi, per cui anche dal punto di vista del tassametro non erano cifre da capogiro, però si sentiva, aveva questo afflatto, diciamo, di solidarietà, che, cioè, lo sapevo perché aveva questa mentalità. Lo chiamavano il tassista galantuomo, gentiluomo, giusto? Sì. Volevo chiederle questa cosa, voi perché avete scelto di candidarlo all'Ambrogino d'Oro? Cioè, qual è stata la motivazione che vi ha spinto? Ma allora, i fondamentali sono che quando ci sono queste situazioni a Milano si propongono persone che hanno dato un contributo al miglioramento delle condizioni sociali, no? Perché gli ignavi, si sa, nella vita non fecero né bene né male, disse il Dante, no? Però questi personaggi che hanno avuto questo, come dire, questo senso di solidarietà nei confronti della società, di gente che magari assolutamente sconosciuta, quindi di essere, come dire, a disposizione degli altri anche quando non li conosci. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.